Ad alta voce, edizione 20 anni. Galatea Ranzi legge Panorama di Tommaso Pincio. La reputazione del Tevere è di molto superiore ai suoi meriti. L'acqua è torbida e malsana e bisogna lasciarla posare molte ore prima che la si possa bere. Ottavio Tondi, Memorie delle cose lette prima di dire m'addormento, appunto numero 721. Infine Ligeia. Tondi ne notò il profilo, perché lei sola commentava i suoi post. Dopo la brutta esperienza del linciaggio, si era fatto furbo. Aveva rispolverato il lato saturnino, il defilarsi, solitario e selvatico. Era il modo in cui aveva sempre vissuto. Che bisogno c'era di inventarsene altri? Tornò su Panorama, ma a una condizione, dandosi delle regole precise. Non intervenire mai più in una discussione, non condividere foto, non esprimere pareri o idee di qualsivoglia specie, non scrivere nulla di sé. Anche il social aveva le sue regole, però, e tra queste rientrava l'obbligo di offrire alla vista altrui almeno un contenuto al giorno, pena l'inibizione ad accedere al proprio profilo. Tondi aggirò l'ostacolo in maniera semplice e sincera, coerente con la sua storia e con la webcam puntata contro la sua libreria. Ogni giorno apriva una pagina a caso di uno dei tanti quaderni delle memorie delle cose lette e trascriveva su Panorama il primo appunto che gli finisse sotto gli occhi. Commentassero pure, lo irridessero, lo insultassero. Lui non avrebbe fatto una piega. Lo stratagemma funzionò meglio delle sue più rosee speranze. Nessuno lo aggredì, nessuno commentò, nessuno si interessò minimamente ai suoi post. Tondi cominciò a godersi il Panorama nella confortante certezza di restare inosservato. Non era più una delle tante celle spiate dai sorveglianti nella torre. Era la torre, adesso, il sorvegliante unico. Erano trascorse 3 settimane esatte quando Ligeia lasciò il primo commento. Una parola appena. Stendhal. Il nome dell'autore di quel giorno. Memorie delle cose lette prima di dire m'addormento numero 622. Ho letto che, come Medea, fra i tanti pericoli, io mi dirò, ho ancora me stesso. Nell'udire il suono che segnalava l'arrivo di un nuovo commento, Tondi fu colto dall'ansia. Temendo di dover fronteggiare qualcosa di offensivo, fu tentato di non guardare cosa gli avevano scritto, sebbene fosse inutile. Poteva rimandare soltanto di qualche ora, perché un'altra delle regole di Panorama prevedeva l'obbligo di prendere visione di tutti i commenti della giornata entro la mezzanotte. Decise di togliersi subito il dente. E tale fu il sollievo di constatarne l'innocuità che non rimase un istante di più nello spazio dedicato ai commenti. Tornò a godersi Panorama senza preoccuparsi di verificare chi fosse l'autore. Il giorno seguente, come al solito, pubblicò un altro appunto. Memorie delle cose lette prima di dire m'addormento numero 54. Ho letto che quando si incontra una bella ragazza e le si chiede «Sì, buona, vieni con me». Ciò che ella intende col suo sorpassarci silenziosa è «Perché dunque io, una bella ragazza, dovrei andare con te?» L'avviso sonoro fu pressoché istantaneo. Kafka. Stavolta Tondi dovette prestare maggiore attenzione. Vide quel nome insolito, Ligeia Tissot, e l'immagine che l'accompagnava. Il volto di una ragazza poco più che ventenne, capelli neri, l'aria nervosa e altera. Passò quindi a guardare cosa avesse offerto alla vista e vide per la prima volta il suo letto vuoto e disfatto, gli oggetti che spuntavano dal viluppo di coperte e lenzuola. Ebbe voglia di replicare, di dirle che sì, che si trattava proprio di Kafka e che quelle del giorno prima erano proprio parole di Stendhal. Ma si era dato regole precise e per meglio reprimere quell'impulso. Si fece una canna e tornò a osservare il letto e le cose che lo popolavano. Una bottiglia di birra vuota, un reggiseno azzurro, un'edizione di Clarissa di Samuel Richardson, in 3 volumi che possedeva anche lui, una spazzola per capelli, un paio di jeans, un portacenere sporco con quella che aveva tutta l'aria di essere una canna fumata a metà. Il giorno intero se ne andò a quel modo. Se n'era andata anche una buona parte della sera, quando Tondi prese un quaderno ancora immacolato, lo aprì alla prima pagina, vi scrisse la data e sotto di essa l'elenco delle cose viste in quel letto. Era il 7 aprile del primo anno di corrispondenza con Ligeia Tissot. Già l'amava. Inutile stabilire cosa l'avesse stregato di più, se la capigliatura nerissima che gli ricordava quella di Maddalena, o la follia fiera del suo sguardo, o le cose sul letto, la canna sul posacenere, Clarissa, l'azzurro del reggiseno. Ci soddisfi sapere che già la sentiva gemella, sebbene si guardasse dal fare apertamente di questi pensieri. La sola cosa che apertamente ammise quella notte, prima di addormentarsi, fu la contentezza di aver scoperto che esistevano ancora persone come Ligeia Tissot, persone giovani e femmine per di più. Vennero nuovi giorni, nuovi post, nuovi commenti. Come in un gioco erotico, Tondi alzò il tiro. Pescò dai quaderni gli appunti più sofisticati, gli autori più oscuri e difficili da individuare. Ligeia non sbagliava un colpo. I nomi che lei faceva erano immancabilmente quelli giusti da fare. Non c'era nulla che quella ragazza non avesse letto, nessuna frase di cui non riconoscesse al volo l'estensore. E più lei dava prova della sterminatezza delle sue letture, più lui cadeva in un eccitato languore. Viveva in un inebriamento perenne adesso, alimentato ovviamente dai fumi della marijuana. Non distingueva più un mattino da un pomeriggio, un giorno di sole da uno di pioggia. Era come un turista intontito che, nell'attesa di recuperare i bagagli dopo molte ore di volo e di sonno, pregusti il momento speciale dell'impatto, la prima ventata d'aria esterna, l'odore del paese straniero che l'aggredirà all'aprirsi delle porte automatiche, strappandolo al microclima dell'aeroporto. Naturalmente, moriva dalla voglia di replicare ai commenti di Ligeia, ma temeva di rompere qualche equilibrio. Voleva preservare l'incanto e perciò si trattenne anche dalla voglia di scriverle in privato, di chiederle di dirgli qualcosa di lei, qualunque cosa. Si accontentò di proseguire nelle operazioni di sorveglianza del letto, sperando che prima o poi, oltre a coperte e cuscini, oltre a oggetti inanimati e avanzi di cibo e bevande, la webcam inquadrasse anche lei. Ma lei non appariva mai, nonostante lui passasse intere giornate incollato allo schermo. Spesso si alzava in piena notte per dare un'occhiata, sperando di sorprenderla nel letto, intenta a leggere o a fumare o mangiare o anche semplicemente dormire, anzi, soprattutto dormire. Gli sarebbe piaciuto tanto coglierla nel sonno, sorvegliarne il corpo addormentato, la respirazione regolare, un battito occasionale delle ciglia o qualche altro fremito del viso, un qualsivoglia segno di un sogno in corso. Ma non la sorprendeva mai. Era un letto fantasma. Eppure gli oggetti cambiavano, sparivano e riapparivano, di questo ne era sicuro. Aveva i quaderni, gli inventari che giornalmente stilava. Il letto era fantasma ma vivo. Qualcuno ci dormiva. Ci si spogliava, ci si vestiva, ci mangiava, ci leggeva, ci navigava, ci si drogava e chissà cos'altro ancora. Possibile che non gli riuscisse mai di sorprenderla nel letto? Un mistero, anche più di un mistero, considerato alla luce di quel nome da romanzo, ai commenti lapidari che lasciava sotto i suoi post, alle letture che da quei commenti trasparivano. Le tante domande che Tondi si poneva svanirono d'incanto una sera. Si era allontanato dal computer per cucinarsi qualcosa quando udì un avviso sonoro, un rumore diverso da quello che solitamente udiva, l'avviso di un nuovo commento. Lasciò i fornelli. Si accorse che qualcuno gli aveva scritto in privato. Era la prima volta che gli scrivevano in privato. Aprì la posta. «Salve», diceva il messaggio. «Sono Ligaia Tissot». «Lo vedo», rispose lui stordito. Lei replicò all'istante. «Caspita, che onore!» «Che onore è cosa?» «Che mi abbia risposto». «Perché non avrei dovuto?» «Non so, una celebrità come lei, Ottavio Tondi. Non pensavo rispondesse a chiunque». «Celebrità, che parola grossa!» «Temo sia storia vecchia ormai e comunque non darmi del lei. Fai sentire vecchio anche me». Stavolta passò qualche secondo prima che la risposta arrivasse. «Non sei così vecchio. Più di te sicuramente, ma grazie lo stesso. Ti ho visto leggere una volta». «Davvero? E dove?» «A Napoli, 10 anni fa». «A San Carlo?» «Sì. Mi sarebbe piaciuto venirti a salutare in camerino, ma mia madre non ha voluto». «Sarei stata una bambina all'epoca». «Non proprio, avevo già 14 anni, quasi 15. «Sei napoletana?» «No, mia madre lo è. Però ho passato a Napoli l'adolescenza, ci ho fatto il liceo». «E di dove sei allora?» «Se posso chiederlo, ovviamente». «Ginevra». «Avrei dovuto arrivarci da solo, con un cognome così». «Già. Niente a che vedere con gli orologi, però». «No?» «Neppure parenti di quei Tissot lì». «No. E di cosa si occupa tuo padre?» «Preferirei non parlare di questo». «Sono stato indiscreto, perdona». «No, è che non ho un gran rapporto con mio padre». «Succede. Nemmeno io l'avevo». «Davvero?» «Sì, diciamo pure che ci detestavamo a vicenda. Ma non fosse stato per lui, per la mancanza di stima che aveva per me, cioè, non sarei mai diventato un lettore». Restò sorpreso di come si stesse aprendo con una perfetta sconosciuta. Ma fu questione di un attimo, dopodiché tornò a scrivere. «In fondo devo tutto a lui, al nostro odio reciproco». «Anch'io sono una lettrice». «L'avevo intuito, e che lettrice!» «Si vede che quando non si è amati dal proprio padre ci si rifugia nei libri». «Un'ipotesi alla quale non avevo pensato», mentì lui. «Mio padre dice che non vuol parlarmi per un anno almeno». «E perché mai?» «Credo vorrebbe una figlia diversa, non così pazza, cioè». «Chi non lo è?» «Diciamo che la mia è una follia dal quadro clinico alquanto complesso. La mia più grande paura è di finire rinchiusa in uno di quei posti». «In un manicomio, intendi?» «Tranquilla, non esistono più». «Esistono ancora, ti assicuro. Ci sono già stata per un periodo». «Scusa se te lo dico, ma se tutto questo è vero, forse dovresti andarci piano con certe cose». «Con quali cose?» «Sai bene quali», gli rispose con un emoticon. «Non ho potuto fare a meno di buttarci l'occhio. Non avrei dovuto curiosare, mi rendo conto». «E perché no?» «Ho puntato io la webcam sul mio letto». «Dunque è il tuo letto?» «E di chi altri se no?» «Non saprei, non ci ho mai visto nessuno». «Mi spii?» Tondi pensò a cosa rispondere. Non poteva certo dirle che passava le giornate a sorvegliare il suo letto. «Che fai, ti sei ammutolito?» «Dovevo controllare una cosa che ho sul fuoco, mi sto preparando la cena». «Guarda che non c'è mica niente di male se mi spii. Il letto è la mia vista. Sta lì per quello, perché la guardi». Non aveva scritto «essere guardata» o «guardino», ma «guardi». Immaginiamo dunque i pensieri di Tondi mentre le risponde: «Lo so, ma non ti spio. Ci sono finito per caso qualche volta». «Per caso, bugiardo?» «Non proprio per caso. Ci vado ogni tanto, quando commenti un mio post». «Li commento ogni giorno». «Sì, è vero, ma non sempre apro la tua vista». «Male». «Perché?» «Potrebbe succederti di vedere anche me». «Ah, dunque potrei?» «Eventualità rara, ma potresti. Ho orari strani, da quadro clinico complesso». «Immagino di sì. Ne varrebbe la pena». «In che senso?» «Sono una gran figa». Tondi tardò a rispondere. «Scherzavo, scrisse lei. Riproporre la scusa dei fornelli gli sembrò poco credibile. «Anche se sono una gran figa davvero. A giudicare dalla foto del profilo, sembri carina in effetti. Dalla foto del profilo non puoi giudicare una minchia. Aspetta. Aspettò. Qualche secondo dopo udì un nuovo avviso sonoro. Gli era stato recapitato un allegato. L'aprì. Era una foto di Ligeia a figura intera, in piedi, accanto a un divano. L'interno era quello di un appartamento borghese. Lei indossava un abito dal quale si intuivano fin troppe cose. Non sembrava una foto recente. Sei svenuto? No. Dunque? Hai ragione, sei una bella ragazza. Se dici gran figa, mica mi offendo, sai. Sei sempre così? Così come? Diretta. Ah, in quel senso. Sono matta, non scema. È che con te mi sento sicura. Potresti essere mio padre, in fondo. Grazie. Scherzavo, e poi non potresti essere mio padre. Non credo di aver parlato così tanto con lui in tutta la mia vita. Non sembra recente. La foto? È di un'eternità fa. La festa per i miei 18 anni. Vivevo ancora da mia madre allora, a Napoli. Hai un buon rapporto con tua madre? Di sicuro più buono che con mio padre, anche se non ci vuole molto. Sei amara? Trovi? Può darsi. Ho avuto un'infanzia difficile, un'adolescenza di merda e adesso eccomi qua. Comunque voglio bene a mia madre. È stata lei a volermi chiamare Ligeia. Le piaceva Po. Ti si adatta? Lo so. Ora devo lasciarti, però. Ho combinato un mezzo casino, anzi un casino intero, e devo trovare un modo per venirne fuori, sempre che ci sia. Posso darti una mano? Dubito. Ho fatto saltare in aria un laboratorio di chimica. E che ci facevi in un laboratorio di chimica? Che ci faccio, vorrei dire. Sono ancora qui, tra le macerie, e non so cosa fare. Quando scopriranno il botto, mi sbatteranno fuori, e a quel punto mio padre non mi parlerà finché campo. Fuori da dove? Dal Massachusetts Institute of Technology. Il MIT di Boston? Quel MIT lì? Yep. E come mai sei lì? Secondo te? Ci studio, no? Sono sorpreso. Immaginavo che tu studiassi letteratura, che fossi una scrittrice o qualcosa del genere. Scherzi. Mio padre mi farebbe ammazzare se sospettasse che scrivo. Peraltro scrivere manco mi piace. Leggo solo. A parte studiare ingegneria, voglio dire. E far saltare in aria laboratori di chimica. Adesso devo proprio andare, scusa. Ci sentiamo un'altra volta, magari. Certo, scrisse lui. Lasciò passare qualche secondo e poi usò. È stato davvero bello chiacchierare con te. Pure per me, ciao, scrisse lei. Questo scambio di battute, che ho pensato giusto trascrivere per esteso, rappresenta l'inizio dei 4 anni di corrispondenza più o meno amorosa tra Ottavio Tondi e Ligeia Tissot. La relazione conobbe i suoi alti e bassi, come è normale che sia in un lungo arco di tempo. Ciò che non mutò mai fu l'amore di Tondi per Ligeia. L'amore non sempre ammesso e quasi mai apertamente espresso, ma comunque presente dal primo giorno all'ultimo. Sui sentimenti di Ligeia ognuno può trarre le conclusioni che crede, leggendo i suoi messaggi. Anche nei momenti peggiori, Tondi restò convinto che ci fosse stato un momento all'inizio in cui lei aspettava solo un suo passo. Galatea Ranzi ha letto Panorama di Tommaso Pincio, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.